Vorrei cominciare con una domanda. Quanti c'erano domenica mattina scorsa? Posso vedere le vostre mani? Bene, la maggioranza. Allora ricordate certamente che c'era Anthony che ha portato un meraviglioso messaggio sul Vangelo, ha parlato della unicità dell'Evangelo rispetto ad ogni altra religione, ha parlato della certezza della salvezza per grazia, che possiamo avere questa certezza e questa sicurezza non in virtù dei nostri sforzi e delle nostre opere, ma in virtù di Gesù Cristo. Si è parlato dell'importanza dell'annunciare l'Evangelo, perché è l'Evangelo e l'annuncio della predicazione dell'Evangelo che permette la salvezza delle persone attraverso la fede che loro ripongono nella pazzia della croce. Nella pazzia della croce c'è salvezza. E quindi abbiamo ascoltato questo meraviglioso messaggio e quella stessa domenica mattina i miei genitori non c'erano. Silenzio, che silenzio tombale, proprio come a dire qua il pastore sta bacchettando i suoi genitori in pubblico, ma non è così, perché i miei genitori erano a loro volta a Zurigo ed erano in chiesa anche loro per una celebrazione altrettanto importante, altrettanto speciale, anzi per la nostra famiglia ancora più importante, perché si sono battezzati i nostri nipoti. Joshua si è battezzato, Gioia si è battezzata e si è battezzata anche Laura, la moglie di Joshua. Vi voglio far vedere la foto, quindi all'estremità destra vedete Gioia e all'estremità sinistra Joshua, che hanno scelto di battezzarsi, e Laura è la moglie di Joshua. E la prossima foto mostra la loro piccola figlia che è in braccio a mio padre qui sulla destra. Lei si chiama Ilea. Per ricordarlo io l'ho memorizzato come è Ikea, però al posto della K la L. Mi perdoni Joshua, mi perdoni Laura per questo, ma è l'unico modo per memorizzare. So che ora lo ricorderete tutti, anche voi. E guardate come sorride la piccola Ilea alla visione dei propri genitori che fanno la scelta di battezzarsi. Non è meraviglioso? E allora io sono tornato a casa avendo ascoltato questo meraviglioso messaggio sull'annuncio dell'Evangelo, e poi ho ricevuto i messaggi con queste foto e non ho potuto fare a meno che pensare all'abbinamento di questa occasione, al fatto che da una parte traducevo qui per Anthony sull'importanza dell'Evangelo e quanto l'Evangelo porta salvezza alle persone, e dall'altra parte guardavo le foto per comprendere che l'evangelizzazione parte dalle nostre case. Amen. Io voglio parlare di questo perché è estremamente importante e vorrei che tutti noi considerassimo l'importanza di evangelizzare, sì, ma partire dalle nostre case, dai nostri nipoti, dalle nostre zie, dai nostri cognati, dai nostri nonni, dai nostri genitori, dai nostri fratelli carnali. È in casa che comincia l'evangelizzazione, e Dio ci affida una missione, e la missione è questa, di evangelizzare in casa, in modo particolare, ascoltate i miei genitori, evangelizzare ai nostri figli, perché Dio non ha nipoti. Dio non ha nipoti. Questa sicuramente è una frase che tutti noi abbiamo ascoltato. E io voglio parlare del fatto che Dio non ha nipoti, è il titolo del mio messaggio questa mattina, Dio non ha nipoti, e andrò avanti anche domenica prossima per sottolineare ancora di più questo concetto che Dio non ha nipoti. Vediamo di capirlo insieme, leggendo da Giovanni 1, versetto 9, qui ci parla di Gesù, la vera luce che illumina ogni uomo. Che bella descrizione di Gesù. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli poi era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Questo è qualcosa, questo è un verso da far leggere ai testimoni di Geova o chiunque, ai musulmani che credono che Gesù è solo un profeta e non è il figlio di Dio, non è Dio, non è parte della Trinità. Qua ci dice testuali parole che il mondo fu fatto per mezzo di lui. Per mezzo di chi? di Cristo Gesù, che era con il Padre, con lo Spirito Santo, e insieme in questa meravigliosa unità, tre in uno, hanno creato il mondo. Ma il mondo, c'è scritto, non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, il suo popolo non l'ha ricevuto. Però aggiunge: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Non è la nascita biologica che ci permette di essere salvati, ma è la rinascita soprannaturale che ci permette di essere salvati. Quindi cosa intendiamo quando diciamo che Dio non ha nipote? Beh, è molto semplice, che la salvezza non si ottiene per eredità. Non puoi ereditare la salvezza e non puoi essere salvato perché sei nato in una famiglia cristiana. Non funziona così. Ahimè, non funziona così. Ma è anche la bellezza della libertà che Dio dà ad ogni uomo e ad ogni donna di scegliere se seguirlo o meno. E quindi noi in casa non possiamo partire dal presupposto che i nostri figli, perché noi siamo credenti, perché noi siamo rinati, perché noi ci siamo battezzati, anche loro saranno salvati. Non funziona così. Non è per eredità. Dio non ha nipoti. Ha solo figli. Essere figli significa accettare la bellezza dell'Evangelo, e la salvezza si ottiene mediante una libera scelta da parte di chi crede, chi fa confessione di fede, arrende la propria vita a Cristo, ravvedendosi dei propri peccati, è salvato. E questo vale anche per i nostri figli. Se stai dando per scontato che i tuoi figli saranno automaticamente salvati, stai credendo in una bugia molto nociva e pericolosa. E forse quando te ne renderai conto sarà molto sofferente per te. Io voglio parlarvi da padre, perché ora sono padre anch'io. Ho una piccola bambina di nome Ioanna, e lo sapete tutti. E se c'è un'anima che io vorrei tanto salvare, e sicuramente se potessi salvare una sola persona, diciamo così, beh, io vorrei che sia salva mia figlia. Io voglio ritrovarmi mia figlia nel nuovo cielo e nella nuova terra che erediteremo per l'eternità da Dio. Io voglio fare tutto il possibile affinché lei possa riconoscere la bellezza di appartenere a Cristo, arrendere a Lui la sua vita e camminare con Lui e nei piani Suoi. Ma ahimè, come padre non posso lasciare un'eredità certa. E io voglio essere molto chiaro da questo punto di vista, perché forse in passato, non annunciando bene quello che sto annunciando questa mattina, si è dato troppo per scontato questo principio e abbiamo perso generazioni intere. Vi parlo non solo da padre, ma vi parlo anche da ex responsabile dei giovani. Sapete che per tanti anni sono stato responsabile dei giovani in questa chiesa e ho visto giovani da ogni parte venire. E i giovani che molto spesso venivano da famiglie non cristiane, spesso erano quelli che facevano le scelte più radicali per il Signore. E poi c'erano i figli di credenti ferventi, che amavano il Signore, che vivevano il Signore quotidianamente. Anche loro facevano delle scelte. Oggi alcuni di loro sono nel ministero, altri sono in missione e hanno fatto delle scelte meravigliose. Ma ci sono figli di credenti che si sono smarriti. E molto spesso, ora non per giudicare, additare nessuno, figli provenivano da famiglie dove il cristianesimo veniva vissuto come una religiosità domenicale, ma non come una quotidianità da inculcare e passare ai propri figli. Ora io voglio dirvi quello che non possiamo fare come genitori, e questo mio messaggio è in modo particolare per tutti i genitori, ma vale anche per ogni altra persona qui in chiesa che mi sta ascoltando, perché i nostri figli sono un dono prezioso per la chiesa e tutti dobbiamo prenderci responsabilità. Ma questo vale anche per l'evangelizzazione nelle nostre case. Noi non possiamo salvare nessuno. Non possiamo salvare nessuno. Non lo possiamo fare. Solo Cristo può salvare. Però sebbene la salvezza è un dono personale che noi non possiamo trasferire, possiamo trasferire la bellezza e l'importanza di essere salvati. Questo sì che possiamo fare. E allora, assodato quello che non possiamo fare, vogliamo vedere insieme che cosa possiamo fare? È scritto da subito in Deuteronomio, grazie a Noemi che ci sei e che vuoi ascoltarlo. E questo passo comincia proprio con ascolta Israele, infatti si chiama Shema. Questo è un testo biblico di estrema importanza per il popolo di Israele ed è tuttora di estrema importanza anche per il popolo cristiano, perché questo ascolta o Israele è un monito, un'urgenza che Dio dà, affida al popolo di Israele, ma che Gesù riprende quando gli viene domandato qual è il più grande dei comandamenti. E Gesù risponde così. Deuteronomio capitolo 6 dal versetto 4. Ascolta Israele, ascolta popolo di Dio. E questo ascolta, questo Shema significa ascolta, ma è molto di più di ascoltare. È un miscuglio tra assimilare e ubbidire al tempo stesso. Non è solo un ascolto passivo, non è l'ascolto sonoro di vibrazioni acustiche di una voce che parla, ma è un assimilare e far proprio una verità fondamentale. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Amen. E il popolo di Dio dice amen, è così. Tu amerai dunque il Signore, tu amerai al di sopra di ogni comandamento. Il comandamento per eccellenza è amare. Non è meraviglioso il nostro Dio? Non è un tiranno dittatore che ci impone delle regole, delle leggi brutte. Lui parla e ci invita ad una relazione d'amore. Io ti comando di amarmi perché io ti amo. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Ascoltate, li inculcherai ai tuoi figli. Li inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno. E la mano ci parla dell'azione, delle azioni e delle scelte quotidiane. Te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, che ci parla di avere una visione, di filtrare ogni cosa secondo la volontà di Dio, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città, che ci parla dell'annunciare questa verità nella quale si crede in casa alle generazioni e alla società che ci circonda. Non è meraviglioso? Qui Dio ci dice, genitori, che cosa possiamo fare con i nostri figli. E quello che dice è: ne parlerai. Ne parlerai. Il pulpito e la predicazione più importante che i tuoi figli ascolteranno non è qui in questa chiesa e da parte di un predicatore qui su un pulpito, ma è nel tuo soggiorno di casa. È lì che ascolterà il messaggio dell'Evangelo più importante. Ne parlerai, uomini, ne parlerai. Perché dico uomini? Perché siamo restii a parlare, siamo restii ad esprimere, siamo restii a far uscire dalla nostra bocca ciò in cui crediamo, ma è fondamentale che noi ne parliamo. Perché sapete, in Romani c'è scritto proprio questo. C'è scritto Romani 10, versetto 14, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Uomini, padri, siamo chiamati ad annunciare, a parlare. E non devi essere un eloquente predicatore per esprimere la bellezza dell'Evangelo. Basta che ti preoccupi di pilotare bene le tue parole in casa, in macchina, quando sei con tuo figlio, quando sei con tua moglie, nelle quattro mura domestiche. Abbiamo sentito un meraviglioso messaggio da parte di Noemi, parlare come Gesù parla. Noi siamo chiamati a far uso delle parole, perché le parole sono il mezzo mediante il quale si può ascoltare l'Evangelo e credere. Infatti nel verso 17 c'è scritto proprio che la fede viene da ciò che si ascolta. Ciò che si ascolta. I nostri figli non possono ascoltare l'Evangelo solo per 45 minuti la domenica, e a volte alcuni genitori si privano addirittura anche di questo tempo. Hanno bisogno di sentire la domenica l'annuncio dell'Evangelo e poi hanno bisogno di sentirlo il lunedì, il martedì. E questa voce e questo parlare deve superare il parlare e la voce della società. Siete d'accordo con me? La nostra Chiesa deve parlare e deve annunciare che appartenere a Cristo è la cosa più meravigliosa che si possa vivere, è la scelta migliore, è la speranza più grande, è per questa vita terrena, ma anche per l'eternità. Parlerai, parlerai, parlerai ai tuoi figli. Parlerai ai tuoi figli, e mi viene in mente quello che in Matteo capitolo 12 versetto 34 Gesù dice che dall'abbondanza del tuo cuore la tua bocca parla. Dall'abbondanza del tuo cuore. Cosa abbonda nel tuo cuore? Ciò che abbonda nel tuo cuore uscirà dalle tue labbra e arriverà alle orecchie dei tuoi figli per poi scendere nel loro cuore. Di cosa sei abbondante nel cuore? Della tua passione calcistica? Della tua squadra del cuore? Dell'Inter, del Milan, della Juve? Niente di negativo in questo. Di cosa è pieno il tuo cuore? Della macchina nuova che hai acquistato? Del lavoro e della carriera e del nuovo cellulare che ti sei potuto permettere? Di cosa è piena la tua bocca? Ricordo la scena di Checco Zalone con il figlio. Era il figlio suo, che lo porta in vacanza. Ed è su uno yacht. E dice al figlio, figlio mio, non credere che questa sia la felicità. E poi punta il dito a uno yacht più grande. Dice, perché quella è la vera felicità. Noi ridiamo, ma è nella nostra cultura l'inseguire cose futili. E noi siamo in quella gara di inseguire cose che non valgono per l'eternità. E quale errore madornale è immettere i nostri figli a vivere quella gara? Io so che non vi sto dando belle notizie, lo so che questo è un messaggio pesante perché chiama e porta l'urgenza i genitori ad una responsabilità, e noi siamo già carichi, sovraccarichi di responsabilità. Però questa è la responsabilità più importante. E io, tu, spero, prego, non ci ritroveremo mai a 10 anni a questa parte, a 20 anni a questa parte, a piangere amaramente per le scelte dei nostri figli, perché potranno avere un yacht migliore, ma essere lontani da Cristo. E noi avremo avuto una parte di responsabilità in questo. Potranno essere appassionati di calcio e viaggiare, potrebbero essere loro stessi dei calciatori famosi, ma senza Cristo, che cosa ne è di loro? Che cosa ne è dei nostri figli senza Cristo? E allora ne parlerai. Dio ci dà questo comandamento, non è il pastore Mirko che te lo dice, è Dio in persona che questa mattina ti ha portato in questo luogo e ti dice: ne parlerai, non terrai la tua bocca chiusa e ti preoccuperai di cosa abbonda il tuo cuore. E allora mi chiedo: di che cosa abbonda il tuo cuore? Ritrova le tue priorità. Ritrova le tue priorità per il bene tuo, ancora di più per il bene dei tuoi figli, perché hai una responsabilità. Non dice ne parlerai solamente, in realtà dice prima lo inculcherai, li inculcherai e ne parlerai. Il parlare è un mezzo per inculcare. Inculcare è un verbo ancora più importante perché significa trasferire, e sapete, questo termine inculcare parla di qualcosa di affilato che penetra. Inculcare significa dall'ebraico affilare una spada che ha perso il taglio. Quindi tu affili costantemente le lame per essere efficace nel trafiggere, nel tagliare. E Gesù, Dio, ci dice attraverso la sua parola: questa è l'azione che io vi invito ad avere quando si tratta dei miei comandamenti, dei miei statuti, dei miei principi. Li inculcherai, li farai penetrare dentro di loro. E non c'è modo migliore di far penetrare la volontà di Dio se non quella di viverla in prima persona. E allora, se vivi in prima persona la volontà di Dio, riuscirai a inculcarla, o meglio, per dirla meglio, avrai più possibilità che i tuoi figli possano ricevere questi principi e vivere per essi. Cosa inculchi ai tuoi figli? Me lo sono dovuto chiedere da subito. Che cosa sto inculcando? Quali video di YouTube sto scegliendo? Quali canzoncine? Quale affezione con mia figlia? Perché per inculcare devi poter avere anche una fiducia da parte dei tuoi figli. E per avere quella fiducia hai bisogno di passare del tempo, di amarli sinceramente, di abbassarti al loro livello. Oh, quanto è bello abbassarsi al livello di una mocciosa di 2 anni e scoprire cose che non avevi mai scoperto prima. Non parlo solo di Peppa Pig, di Lucilla e delle canzoni più patetiche che ti ritrovi a cantare. Oh, che vergogna che ho a dirvi che ballo con mia figlia, come non ho mai ballato per nessuno al mondo, neanche per le ragazze, ma per mia figlia sì. Per abbassarsi al loro livello significa anche portare l'Evangelo alla loro portata. Fermarsi con mia figlia, far comprendere che le stelle che luccicano in cielo e di cui cantiamo le ha create Dio, nella speranza che lei non arrivi mai alla bugia che quelle stelle sono piazzate in cielo per una casualità. No, è Dio che le ha create, e le ha create per lei e per me. Inculcherai, e lo puoi fare da tuo figlio che ha 1 mese. Ma quello che voglio dirti anche è che il tempo è breve. È troppo breve. Per influenzare efficacemente i tuoi figli. L'adolescenza arriva subito. Cosa stai inculcando ai tuoi figli quando fuori piove ed è domenica mattina? Che la Chiesa è un'opzione. E che se piove non vale la pena fare lo sforzo di venire in chiesa. Cosa stai inculcando ai tuoi figli quando c'è il sole di domenica mattina? Ed è bello poter andare al parco. E tutti i genitori lo sanno. E capite bene, io credo fermamente che sia vero per te, per la tua vita, che non è necessario che vieni ogni domenica in chiesa, sebbene sia la scelta migliore ed è un comandamento biblico. Però ti assicuro che è di fondamentale importanza per i tuoi figli. Che tu scegli di mostrare loro qual è la tua priorità ogni domenica e poi ogni giorno della settimana. Che cosa stai inculcando ai tuoi figli? Sono un po' pesante questa mattina. Il motivo per il quale sono pesante è perché sto pensando alle occasioni perse, alle occasioni mancate e la finestra temporale è breve. È troppo breve, torno a ripeterlo. E forse tu puoi vivere in questa finestra temporale una tua stagione di crisi, come tutti noi viviamo, una crisi spirituale, un'amarezza per la Chiesa, una delusione per il fratello. E quella crisi nella tua vita passerà. Ma purtroppo potrebbe lasciare danni nei tuoi figli, in quella breve finestra temporale che hai a disposizione per influenzarli. E allora vai oltre la tua crisi, vai oltre le tue priorità, vai oltre la tua amarezza, vai oltre tutto quello che ti impedisce di mostrare la bellezza della salvezza e la bellezza di appartenere a Cristo, perché di mezzo c'è l'unica opportunità che tu hai di evangelizzare in casa efficacemente. Voglio concludere dicendo questo, che il tuo amore per Cristo è contagioso. La tua passione per la parola, per la Chiesa, per il regno, per la preghiera è contagioso. E influenzerà i tuoi figli, dando loro, se vivrai queste cose, maggiore margine di possibilità di comprendere quanto prezioso è Cristo e la salvezza per grazia. A conclusione di questo messaggio, sapete cosa avevo pensato di fare? Avevo già avvisato Luigi. Ho detto, mi piacerebbe pregare per le famiglie. Mi piacerebbe che i bambini venissero in sala e che potessimo imporre le mani sui nuclei familiari e pregare per i nuclei familiari. Ho mandato questo messaggio a Luigi, ma circa un'ora fa, in preghiera, lo Spirito Santo mi ha detto non farlo. Fallo la prossima settimana. La prossima settimana continueremo a parlare di questo soggetto e benediremo le famiglie. E sapete perché lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore di non farlo? Perché la conclusione del mio messaggio dice così: ciò che importa oggi, questa mattina, è che tu cominci da te. Ciò che importa di questo incontro, di tutto quello che io ho detto, è quanto tu scegli oggi di avere un'abbondanza nel cuore di Cristo, della sua parola, di essere seri nel seguirlo per te stesso e per il bene della tua famiglia, per il bene dei tuoi figli, per il bene dei tuoi nipoti, per il bene dei tuoi genitori, dei tuoi zii, dei tuoi parenti, perché nella misura con la quale tu vivrai Cristo, darai ad altri l'opportunità di accettare il suo amore. Romani 12, versetto 11 dice: quanto allo zelo, non siate pigri. siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Se c'è una cosa dalla quale devi partire, è questo. Perché non c'è cosa peggiore di essere un genitore che è tiepido. Un genitore tiepido mette i propri figli al guinzaglio e non permette a loro di vivere la pienezza e la bellezza di seguire Cristo. E lo dico dall'esperienza che citavo già prima. Genitori tiepidi, percepivi che avessero un'influenza nei giovani, in quelle riunioni dove lo Spirito Santo stava facendo qualcosa di soprannaturale, vedevi le loro facce e vedevi la loro postura e poi scoprivi le loro storie e la critica che c'era in casa della chiesa o del pastore, che all'epoca non ero io, però sono certo che c'è ancora oggi, c'è possibilmente ancora oggi. E sono criticabile e faccio errori. Non sono qui per dire dovete innalzare il mio nome in casa, però avete la responsabilità di far percepire ai vostri figli quanto, oltre tutte le cose mancanti che ci sono in chiesa e le brutture che possono capitare nel nostro mezzo, l'Evangelo è meraviglioso e appartenere alla Chiesa di Cristo è il privilegio più glorioso che ci possa essere. Non mettere il guinzaglio ai tuoi figli, non farlo. Sii fervente, sii zelante. Mettiti in crisi da solo davanti a Dio per dire: Signore, dove mi trovo? Quanto sei la mia priorità? Quanto vieni al primo posto? Perché oggi, questa mattina, è il tempo di fare questo. E se lo farai con un cuore sincero, permettendo allo Spirito Santo di operare, Lui ti investirà. E la potenza dello Spirito Santo, c'è scritto in Atti capitolo 1, ci dà l'autorità di essere suoi testimoni. Dice: riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi e allora mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E sapete D.L. Moody, un grande evangelista, che cosa ha detto? Ha detto: se vogliamo raggiungere le nazioni per Cristo, dobbiamo cominciare dai nostri figli. Ed è proprio così. E allora dobbiamo essere potenziati dallo Spirito Santo e dalla sua sapienza, dalle sue parole di discernimento, dalle sue parole profetiche per ministrare in casa, affinché in casa ci possa essere salvezza e dalla casa salvezza per le nazioni. Se hai figli non credenti, qualcuno ha detto, la tua casa è un campo di missione. E questo vale per tutti i genitori che hanno figli piccoli, che devono ancora raggiungere la loro età adulta e fare le loro scelte. È il tuo campo di missione per inculcare, per parlare e per possibilmente influenzarli a fare la scelta migliore della loro vita. E quella stessa persona ha detto: se i tuoi figli sono credenti e la tua famiglia è salvata, È una base di missione. La mia preghiera per la nostra Chiesa è che possa avere tante basi missionarie, dovunque ci troviamo, nei vari paesi che vedo qui rappresentati, perché i nostri figli sono nella società e perché noi ci troviamo in quartieri, in condomini che hanno bisogno dell'Evangelo e parte da casa nostra. Vogliamo alzarci. Chiudiamo i nostri occhi, voglio rileggere lo Shema ebraico. Chiudi i tuoi occhi, fai tue queste parole. Dio dice: ascolta Israele, il Signore, il tuo Dio, è l'unico Signore. tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Padre, noi questa mattina riconosciamo di avere il grande privilegio di essere il tuo popolo. E se siamo qui è perché siamo in ascolto. Siamo in ascolto, Padre. E vogliamo amarti con tutto il nostro cuore, vogliamo amarti con tutta l'anima nostra e con tutte le forze. Ti chiediamo perdono perché non siamo sufficienti a noi stessi. Ti chiediamo perdono per gli errori commessi in famiglia, nelle quattro mura domestiche che non hanno ben rappresentato chi sei e la bellezza dell'Evangelo. Perdonaci, perdonaci, perdonaci. Perdona la condizione del nostro cuore se è tiepido. Perdona la nostra condizione del cuore se è lontano da te. Perdona se siamo attratti da altre cose che sono idolatria se non sei tu. Perdonaci, Padre, per le nostre passioni che si muovono dentro di noi, ci agitano e ci guidano a scelte che influenzano i nostri figli e le generazioni a venire. Io prego questa mattina una rottura generazionale rispetto a questo modo di fare secolare, mondano, che ci è stato tramandato dai nostri avi. E io prego che da questa mattina tu possa fare un miracolo in ciascuno di noi, in noi genitori, in noi figli, in noi nipoti, in noi nonni. Voglio pregarti che tu possa riempire il nostro cuore affinché il nostro cuore sia abbondante di te, sia abbondante di Spirito Santo, così che poi la nostra bocca può parlare guidata da te, affinché possiamo inculcare i principi tuoi. Aiutaci in questo, Padre. Ti prego per ogni persona che sta tornando in questo momento a considerare l'importanza di fare sul serio con te. Amen. Grazie Gesù. Amen. Vogliamo adorare il Signore. Mentre adoriamo, prenditi del tempo per stare con il Signore e continuare a scegliere per Lui. Rendere la tua vita per il bene tuo, ma anche per il bene di chi ti circonda. Vivi un tempo personale di preghiera, se vuoi inginocchiarti puoi farlo. Lasceremo che questo sia un tempo un po' più lungo di adorazione e di preghiera, affinché individualmente possiamo scegliere, individualmente prendere una posizione che sia a favore dell'Evangelo e della salvezza di molte altre persone.